Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Rafael Bari, febbraio 2007. La Divina Commedia di Dante Alighieri. Libro terzo, capitolo diciottesimo, canti ventiduesimo, ventitreesimo, ventiquattresimo, venticinquesimo, ventiseiesimo e ventisettesimo. Paradiso, canto ventiduesimo. Oppresso di stupore, alla mia guida mi volsi, come parvol che ricorre sempre colà dove più si confida. E quella, come madre che soccorre subito al figlio, palido e anelo, con la sua voce che suol ben disporre, mi disse: non sai tu che tu sei in cielo? E non sai tu che il cielo è tutto santo? E ciò che ci si fa vien da buon zelo? Come t'avrebbe trasmutato il canto? E io ridendo, mo pensarlo puoi, poscia che il grido t'ha mosso cotanto, nel qual, se inteso avessi i prieghi suoi, già ti sarebbe nota la vendetta che tu vedrai innanzi che tu muori. La spada di quassù non taglia in fretta, né tardo, ma cal parer di colui che desiando o temendo l'aspetta. Ma rivolgiti omai in verso altrui, ch'assai illustri spiriti vedrai, se com'io dico l'aspetto redui. Come a lei piacque, gli occhi ritornai e vidi cento sperule che insieme più s'abbellivan con mutui rai. Io stava come quei che in sé repreme la punta del disio e non s'attenta di domandar, sì del troppo si teme. E la maggiore e la più luculenta di quelle margherite innanzi fessi per far di sé la mia voglia contenta. Poi dentro a lei udì: se tu vedessi com'io la carità che tra noi arde, i tuoi concetti sarebbero espressi. Ma perché tu, aspettando, non tarde all'alto fine, io ti farò risposta, pur al pensier, da che sì ti riguarde. Quel monte, a cui Cassino è nella costa, fu frequentato già in sulla cima dalla gente ingannata e mal disposta. E quel son io che su vi portai prima lo nome di colui che in terra addusse la verità che tanto ci sublima. E tanta grazia sopra me relusse ch'io ritrassi le ville circunstanti dall'empio colto che il mondo sedusse. Questi alti fuochi, tutti contemplanti, uomini fuoro, accesi di quel caldo che fa nascere i fiori e i frutti santi. Qui è Macario, qui è Romoaldo, qui son li frati miei che dentro ai chiostri fermar li piedi e tennero il cor saldo. E io a lui l'affetto che dimostri meco parlando e la buona sembianza ch'io veggio e noto in tutti gli ardor vostri, cosi m'ha dilatata mia fidanza, come il sol fa la rosa quando aperta tanto divien quant'ella di possanza. Però ti priego, e tu padre m'accerta, s'io posso prender tanta grazia ch'io ti veggia con immagine scoverta. Ond'elli, frate, il tuo alto disio s'adempierà in sull'ultima spera, ove s'adempion tutti gli altri e il mio. Ivi è perfetta, matura, intera, ciascuna disianza, in quella sola e ogni parte là ove sempre era. Perché non è in loco e non s'impola, e nostra scala infino ad essa varca, onde così dal viso ti s'invola. Infin, lassù, la vide il patriarca Iacobbe porger la superna parte, quando gli apparve d'angeli si carca. Ma per salirla, mo, nessun diparte da terra i piedi, e la regola mia rimasa è per danno delle carte. Le mura che s'udiono esser badia fatte sono spelonche, e le coccolle sacca son piene di farina ria. Ma grave usura tanto non si tolle contro il piacer di Dio quanto quel frutto che fa il cor dei monaci si folle. Che quantunque la chiesa guarda, tutto è della gente che per Dio dimanda, non di parenti né d'altro più brutto. La carne di mortali è tanto blanda che giù non basta buon cominciamento dal nascer della quercia al far la ghianda. Pier cominciò sans'oro e sans'argento, e io con orazione e con digiuno, e Francesco umilmente il suo convento. E se guardi il principio di ciascuno, poscia riguardi là dove è trascorso, tu vedrai del bianco fatto bruno. Veramente Jordan volto retrorso più fu, e il mar fuggir, quando Dio volse mirabile a veder che qui il soccorso. Così mi disse, e indi si raccolse al suo collegio, e il collegio si strinse, poi come turbo in su tutto s'avvolse. La dolce donna dietro allor mi pinse con un sol cenno su per quella scala, sì sua virtù la mia natura vinse. Né mai qua giù, dove si monta e cala naturalmente, fu sì ratto moto ch'agguagliar si potesse alla mia ala. S'io torni mai, lettore, a quel divoto triunfo per lo quale io piango spesso le mie peccata e il petto mi percuoto, tu non avresti intanto tratto e messo nel fuoco il dito, in quanto io vidi il segno che segue il Tauro e fui dentro da esso. Oh gloriose stelle, oh lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno. Con voi nasceva e s'ascondeva bosco quelli che padre d'ogni mortal vita, quand'io senti di prima l'aere tosco. E poi, quando mi fu grazia largita d'entrar ne l'alta rota che vi gira, la vostra region mi fu sortita. A voi, divotamente, ora sospira l'anima mia per acquistar virtute, al passo forte che a sé la tira. Tu sei sì presso all'ultima salute, cominciò Beatrice, che tu dei aver le luci tue chiare e acute. E però, prima che tu più t'inlei, rimira in giù, e vedi quanto mondo sotto di piedi già esser ti fei, sì che il tuo cuor quantunque può giocondo s'appresenti alla turba trionfante, che lieta vien per questo etera tondo. Col viso ritornai per tutte quante le sette spere, e vidi questo globo tal ch'io sorrisi del suo vil sembiante. E quel consiglio per migliore approvo, che l'ha per meno, e chi ad altro pensa, chiamarsi puote veramente probo. Vidi la figlia di Latona incensa, senza quell'ombra che mi fu cagione, perché già la credetti rara e densa. L'aspetto del tuonato Iperione qui vi sostenni, e vidi com si muove circa e vicino a lui Maia e Dione. Quindi mi apparve il temperar di Giove tra il padre e il figlio, e quindi mi fu chiaro il variar che fanno di lor dove. E tutti e sette mi si dimostraro quanto son grandi, e quanto son veloci, e come sono in distante riparo. L'aiuola che ci fa tanto feroci, volgendomi io con gli eterni gemelli, tutta m'apparve dai colli alle foci. Poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli. Fine del canto 22. Paradiso, canto 23. Come l'augello intra l'amate fronde, posato al nido dei suoi dolci nati, la notte che le cose ci nasconde, che per veder li aspetti disiati, e per trovar lo cibo onde li pasca, in che gravi labor li sono aggrati, previene il tempo in sua aperta frasca, e con ardente affetto il sole aspetta, fiso guardando pur che l'alba nasca. Così la donna mia stava eretta e attenta, rivolta inver la plaga sotto la quale il sol mostra men fretta, sì che veggendola io sospesa e vaga, fecimi quale quei che disiando altro vorria e sperando s'appaga. Ma poco fu tra uno e l'altro quando del mio attender dico e del vedere lo ciel venir più e più vischiarando. E Beatrice disse: ecco le schiere del triunfo di Cristo, e tutto il frutto ricolto del girar di queste spere. Pariami che il suo viso ardesse tutto, tutto, e li occhi avea di letizia si pieni che passarmen conviene sanza costrutto. Quale nei pleniluni sereni trivia ride tra le ninfe eterne che dipingon lo ciel per tutti i seni, vidi sopra migliaia di lucerne un sol che tutte quante l'accendea, come fa il nostro le viste superne. E per la viva luce trasparea la lucente sustanza, tanto chiara nel viso mio che non la sostenea. Oh Beatrice, dolce guida e cara, ella mi disse, quel che ti sobranza è virtù da cui nulla si ripara. Quivi è la sapienza e la possanza che aprì le strade tra il cielo e la terra, onde fu già sì lunga disianza. Come fuoco di nube si disserra per dilatarsi sì che non vi cape e fuor di sua natura in giù s'atterra, la mente mia così tra quelle d'ape, fatta più grande, di se stessa uscio e che si fesse rimembrar non sape. Apri gli occhi e riguarda qual son io. Tu hai veduto cose che possente s'è fatto a sostener lo riso mio. Io era come quei che si risente di visione oblita e che s'ingegna indarno di ridurlasi alla mente. Quand'io udì questa proferta, degna di tanto grato che mai non si stingue del libro che il preterito rassegna. Se mo sonasser tutte quelle lingue che Poligna con le suore fero del latte lor dolcissimo più pingue per aiutarmi al millesimo del vero, non si verria cantando il santo riso e quanto il santo aspetto facea mero. E così, figurando il paradiso, convien saltar lo sacrato poema, come chi trova suo cammin riciso. Ma chi pensasse il ponderoso tema e l'omero mortal che se ne carca, non biasmerebbe se sottesso trema. Non è pareggio da picciola barca quel che fendendo va l'ardita prora, né da nocchier ch'a se medesmo parca. Perché la faccia mia si t'innamora che tu non ti rivolgi al bel giardino che sotto i raggi di Cristo s'infiora? Quivi è la rosa in che il verbo divino carne si fece. Quivi son i gigli al cui odor si prese il buon cammino. Così, Beatrice, e io che ai suoi consigli tutto era pronto, ancora mi rendei alla battaglia dei debili cigli. Come raggio di sol che puro mei per fratta nube già prato di fiori vider coverti d'ombra gli occhi miei, vid'io così più turbe di splendori folgorati di su da raggi ardenti senza veder principio di folgori. Oh benigna vertù che si l'imprenti, su te saltasti per largirmi loco, agli occhi lì che non t'eran possenti. Il nome del bel fior ch'io sempre invoco, e mane e sera, tutto mi restrinse l'animo ad avvisar lo maggior foco. E come ambo le luci mi dipinse il quale e il quanto de la viva stella che la sovvince come qua giu vinse, per entro il cielo scese una facella formata in cerchio a guisa di corona e cinsela e girossi intorno ad ella. Qualunque melodia più dolce suona qua giù e più a sé l'anima tira, parrebbe nube che squarciata tona comparata al sonar di quella lira onde si coronava il bel zaffiro del quale il ciel più chiaro s'inzaffira. Io sono amore angelico che giro l'alta letizia che spira del ventre che fu albergo del nostro disiro. E girerommi, donna del ciel, mentre che seguirai tuo figlio, e farai dia più la spera suprema perché li entre. Così la circulata melodia si sigillava e tutti gli altri lumi facean sonare il nome di Maria, lo real mando di tutti i volumi del mondo che più ferve e più s'avviva nell'alito di Dio e nei costumi. Avea sopra di noi l'interna riva, tanto distante che la sua parvenza laddove io era, ancor non m'appariva. Però non ebber gli occhi miei potenza di seguitar la coronata fiamma che si levò appresso sua semenza. E come fantolin che inver la mamma tende le braccia, poi che il latte prese, per l'animo che infin di fuor si infiamma, ciascun di quei cantori in su si stese con la sua cima, sì che l'alto affetto ch'elli avviano a Maria mi fu palese. Indi rimaser lì nel mio cospetto regina cieli cantando sì dolce che mai da me non si partì il diletto. Oh quanta è l'ubertà che si soffolce in quelle arche ricchissime che fuoro a seminar qua giù buone bobolce. Quivi si vive e gode del tesoro che s'acquistò piangendo nello esilio di Babilon, ove si lasciò l'oro. Quivi triunfa sotto l'alto figlio di Dio e di Maria di sua vittoria e con l'antico e col nuovo concilio colui che tiene le chiavi di tal gloria. Fine del canto 23. Paradiso, canto 24. O sodalizio eletto alla gran cena del benedetto agnello, il qual vi ciba sì che la vostra voglia è sempre piena. Se per grazia di Dio questi preliba di quel che cade della vostra mensa prima che morte, tempo li prescriba. Ponete mente all'affezione immensa e roratelo alquanto. Voi bevete sempre del fonde onde vien quel che i pensa. Così Beatrice. E quelle anime liete si fero spere sopra fissi poli, fiammando a volte a guisa di comete. E come i cerchi in tempra d'oriuoli si giran sì che il primo a chi pon mente quieto pare e l'ultimo che voli? Cosi quelle carole, differentemente danzando de la sua ricchezza, mi faciano stimar veloci e lente. Di quella ch'io notai di piu carezza, vid'io uscire un foco si felice, che nullo vi lascio di piu chiarezza. E tre fiate intorno di Beatrice si volse con un canto tanto divo che la mia fantasia non mi ridice. Però salta la penna e non lo scrivo, che l'immagine nostra a cotai pieghe non che il parlar è troppo color vivo. O santa suora mia, che si ne prieghe divota per lo tuo ardente affetto, di quella bella spera mi disleghe. Poscia, fermato il fuoco benedetto, alla mia donna dirizzò lo spiro, che favellò così com'io ho detto. Ed ella, o luce eterna del gran viro, a cui nostro Signor lasciò le chiavi che i portò giù di questo gaudio miro, tenta costui di punti lievi e gravi, come ti piace, intorno della fede per la qual tu su per lo mare andavi. S'elli ama bene e bene spera e crede, non te ho occulto, perché il viso ai quivi dove ogni cosa dipinta si vede. Ma perché questo regno ha fatto civi per la verace fede a gloriarla, di lei parlare e ben che a lui arrivi. Siccome il baccialier s'arma e non parla finché il maestro la question propone per approvarla, non per terminarla, così m'armava io d'ogni ragione mentre ch'ella dicea, per esser presto a tal querente e a tal professione. Di, buon cristiano, fatti manifesto, fede che? Ond'io levai la fronte in quella luce onde spirava questo. Poi mi rivolsi a Beatrice, ed essa pronte sembianze femmi perch'io spandessi l'acqua di fuor del mio interno fonte. La grazia che mi dà ch'io mi confessi, cominciai io, dall'alto primipilo faccia li miei concetti bene espressi. E seguitai, come il verace stilo ne scrisse padre del tuo caro frate che mise teco Roma nel buon filo, fede e sustanza di cose sperate e argomento delle non parventi, e questa pare a me sua quiditate. Allora udii, dirittamente senti, se bene intenti, perché la ripuose tra le sostanze e poi tra gli argomenti. E io appresso le profonde cose che mi largiscon qui la lor parvenza, agli occhi di laggiù son sì ascose, che l'esser loro v'è in sola credenza, sopra la qual si fonda l'alta spine, e però di sustanza prende intensa. E da questa credenza ci convene silogizzar senza avere altra vista, però intensa d'argomento tene. Allora udii, se quantunque s'acquista giù per dottrina fosse così inteso, non li avria loco ingegno di sofista. Cosi spiro di quello amore acceso, indi soggiunse: assai bene e trascorsa d'esta moneta gia la lega e il peso. Ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa. Ond'io: sì, oh, sì lucida e sì tonda, che nel suo conio nulla mi s'inforsa. Appresso uscì della luce profonda che li splendeva questa cara gioia, sopra la qual ogni virtù si fonda, onde ti venne? Ed io: la larga ploia e dello Spirito Santo che è diffusa in sulle vecchie e in sulle nuove cuoia. E sillogismo che la m'ha conchiusa, acutamente sì che in verso della ogni dimostrazion mi pare ottusa. Io udi poi l'antica e la novella proposizion che così ti conchiude, perché l'hai tu per divina favella? E io: la prova che il ver mi dischiude son l'opere seguite, a che natura non scalda ferro mai, né batte incude. Risposto fummi: di chi t'assicura che quell'opere fosser? Quel medesmo che vuol provarsi, non altri, il ti giura. Se il monte si rivolse al cristianesmo, diss'io, senza miracoli, quest'uno è tal che gli altri non son centesmo. Che tu intrasti povero e digiuno in campo a seminar la buona pianta che fu già vite e ora è fatto pruno. Finito questo, l'alta corte santa risonò per le spere: un Dio laudamo nella melode che lassù si canta. E quel baron che si di ramo in ramo esaminando già tratto m'avea, che all'ultime fronde appressavamo, ricominciò: la grazia che donnea con la tua mente la bocca t'aperse infino a qui come aprirsi dovea, sì ch'io approccio che fuori emerse. Ma or convien espremer quel che credi, e onde alla credenza tua sofferse. O santo padre e spirito che vedi ciò che credesti sì che tu vincesti ver lo sepulcro più giovani piedi. Cominciai io: tu vuoi ch'io manifesti la forma qui del pronto creder mio, e anche la cagion di lui chiedesti? E io rispondo: io credo in uno Dio solo ed eterno che tutto il ciel muove, non moto, con amore e con disio. E a tal creder non ho io pur prove fisiche e metafisiche, ma d'almi anche la verità che quinci piove per Moisè, per i profeti e per salmi, per l'Evangelio e per voi che scriveste poi che l'ardente spirito vi fe almi. E credo in tre persone eterne. E queste credo una essenza, si una e si trina, che soffera congiunto sono ed este. Della profonda condizion divina ch'io tocco mo, la mente mi sigilla più volte l'evangelica dottrina. Quest'è il principio, quest'è la favilla, che si dilata in fiamma poi vivace, e come stella in cielo in me scintilla. Come il Signor che ascolta quel che i piace, da indi abbraccia il servo, gratulando per la novella, tosto ch'el si tace? Cosi, benedicendomi, cantando, tre volte cinse me, siccom'io tacqui, l'apostolico lume al cui comando io avea detto, sì nel dir li piacqui. Fine del canto 24. Paradiso, canto 25. Se mai continga che poema sacro, al quale ha posto mano e cielo e terra, sì che m'ha fatto per molti anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra, del bello vile ov'i dormi agnello, nemico ai lupi che li danno guerra, con altre voce omai, con altro vello, ritornerò poeta, e in sul fonte del mio battesmo prenderò il cappello. Però che nella fede che fa conte l'anime a Dio, qui v'intrai io, e poi, Pietro per lei, sì mi girò la fronte. Indi si mosse un lume verso noi, di quella spera ond'uscì la primizia che lasciò Cristo di vicari suoi. E la mia donna, piena di letizia, mi disse, mira, mira, ecco il barone per cui laggiù si vicita Galizia. Sì come quando il colombo si pone presso al compagno, l'uno all'altro pande, girando e mormorando l'affezione. Così vid'io l'un dall'altro grande principe glorioso essere accolto, laudando il cibo che lassù li prande. Ma poi che il gratular si fu assolto, tacito cor a me, ciascun s'affisse, ignito sì che vincea il mio volto. Ridendo, allora Beatrice disse, inclita vita per cui la larghezza della nostra basilica si scrisse, fa risonar la spene in questa altezza. Tu sai che tante fiate la figuri, quante Gesù ai tre fe più carezza. Leva la testa e fa che t'assicuri, che ciò che vien quassù dal morto al mondo, convien ch'ai nostri raggi si maturi. Questo conforto del fuoco secondo mi venne, ond'io levai gli occhi ai monti, che li incurvaron pria col troppo ponto. Poi che per grazia vuol che tu t'affronti lo nostro imperatore, anzi la morte, nell'aula più segreta coi suoi conti, sì che, veduto il ver di questa corte, la spene che laggiù bene innamora, in te e in altrui di ciò conforte, di quel che l'è, e di come se ne infiora la mente tua, e di onde a te venne. Così seguì il secondo lume ancora. E quella pia che guidò le penne delle mie ali a così alto volo, alla risposta così mi prevenne. La chiesa militante alcun figliuolo non ha con più speranza, come scritto nel sol che raggia tutto nostro stuolo. Però li è conceduto che d'Egitto vegna in Gerusalemme per vedere, anzi che il militar gli sia prescritto. Gli altri due punti, che non per sapere son dimandati, ma perché i rapporti, quando questa virtù t'è in piacere, a lui lascio, che non li saran forti, né di attanza. ed elli a cio risponda, e la grazia di Dio cio li comporti. Come discente ch'a dottor seconda pronto e libente in quel ch'elli è esperto, perché la sua bontà si disasconda, spene, diss'io, è un attender certo de la gloria futura, il qual produce grazia divina e precedente merto. Da molte stelle mi viene questa luce, ma quei la distillò nel mio cor pria, che fu sommo cantor del sommo duce. Sperino in te, nella sua teodia, dice, color che sanno il nome tuo, e chi non sa s'egli ha la fede mia? Tu mi stillasti con lo stillar suo nella pistola poi, sì ch'io son pieno e in altrui vostra pioggia repluo. Mentre io diceva, dentro al vivo seno di quello incendio tremolava un lampo subito e spesso a guisa di baleno. Indi spirò l'amore, ond'io avvambo ancor ver la virtù che mi seguette. Infin la palma e all'uscir del campo vuol ch'io respiri a te che ti dilette di lei, ed è mi aggrato che tu dica quello che la speranza t'impramette. Ed io le nuove e le scritture antiche pongon lo segno, ed esso lo mi addita dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. Dice Isaia che ciascuna vestita nella sua terra fia di doppia vesta, e la sua terra è questa dolce vita, e il tuo fratello assai vie più digesta, laddove tratta delle bianche stole questa revelazion ci manifesta. E prima, appresso al fin d'este parole, sperent in te, di sopra a noi s'udì, a che rispuoser tutte le carole. Poscia tra esse un lume si schiarì, sicché se il cancro avesse un tal cristallo, l'inverno avrebbe un mese d'un sol dì. E come surge e va ed entra in ballo vergine lieta, sol per fare onore alla novizia, non per alcun fallo, così vid'io lo schiarato splendore venire a due che si volgiano a nota, qual convienesi al loro ardente amore. Misesi lì nel canto e nella rota, e la mia donna in lor tenia l'aspetto, pur come sposa, tacita e immota. Questi è colui che giacque sopra il petto del nostro pellicano, e questi fue di sulla croce al grande officio eletto. La donna mia così, né però piue mosser la vista sua di stare attenta, poscia che prima le parole sue. Qual è colui ch'adocchia e s'argomenta di vedere eclissar lo sole un poco, che per veder non vedente diventa? Tal mi fec'io a quell'ultimo foco, mentre che detto fu. Perché t'abbagli per veder cosa che qui non ha loco? In terra è terra il mio corpo, e saragli tanto con gli altri, che il numero nostro con l'eterno proposito s'agguagli. Con le due stole nel beato chiostro son le due luci sole che saliro, e questo apporterai nel mondo vostro. Questa voce l'infiammato giro si quietò. Con esso il dolce mischio che si facea nel suon del trino spiro. Siccome per cessar fatica o rischio, li remi pria nell'acqua ripercossi, tutti si posano al sonar d'un fischio. Ahi, quanto nella mente mi commossi, quando mi volsi per veder Beatrice, per non poter veder, benché io fossi presso di lei e nel mondo felice. Fine del canto 25. Paradiso, canto 26. Mentr'io dubbiava per lo viso spento della fulgita fiamma che lo spense, uscì uno spiro che mi fece attento, dicendo: intanto che tu ti risense della vista che hai in me consunta, bene che ragionando la compense. Comincia dunque e di ove s'appunta l'anima tua, e fa ragion che sia la vista in te smarrita e non defunta. Perché la donna che per questa dia region ti conduce ha nello sguardo la virtù ch'ebbe la man d'Anania. Io dissi: al suo piacer è tosto e tardo vegna remedio agli occhi che fuor porte quand'ella entrò col fuoco ond'io semprardo. Lo ben che fa contenta questa corte, alfa e o, e di quanta scrittura mi legge amore o lievemente o forte. Quella medesma voce che paura tolta m'avea del subito abbarbaglio di ragionare ancor mi mise in cura e disse: certo a più angusto vaglio ti convien schiarar, dicer convienti chi drizzò l'arco tuo a tal bersaglio. E io, per filosofici argomenti e per autorità che quinci scende, cotale amor convien che in me s'imprenti. Che il bene, in quanto ben, come s'intende, così accende amore, e tanto maggio quanto più di bontate in sé comprende. Dunque all'essenza ov'è tanto avvantaggio che ciascun ben che fuor di lei si trova altro non è con lume di suo raggio. Più che in altra convien che si muova la mente amando di ciascun che cerne il vero in che si fonda questa prova. Tal vero all'intelletto mio sterne colui che mi dimostra il primo amore di tutte le sustanze sempiterne. Sterne la voce del verace autore, che dice a Moisè, di sé parlando: io ti farò vedere ogni valore. Sternilmi tu ancora, incominciando l'alto preconio che grida l'arcano, di qui laggiù sovra ogni altro bando. E io udì: per intelletto umano e per autorità di a lui concorde, di tuoi amori a Dio guarda il sovrano. Ma di ancora, se tu senti altre corde tirarti verso lui, sì che tu suone con quanti denti quest'amor ti morde. Non fu latente la santa intenzione dell'aguglia di Cristo, anzi mi accorsi dove volea menar mia professione. Però ricominciai. Tutti quei morsi che posson far lo cor volgere a Dio, alla mia caritate son concorsi, che l'esser del mondo e l'esser mio, la morte che l sostenne per ch'io viva, e quel che spera ogni fedel com'io, con la predetta conoscenza viva, tratto m'hanno del mar della mor torto, e del diritto m'han posto alla riva. Le fronde onde s'infronda tutto l'orto dell'ortolano eterno, a mio cotanto quanto da lui allor di bene porto. Siccome io tacqui, un dolcissimo canto risonò per lo cielo, e la mia donna dicea con gli altri: santo, santo, santo. E come al lume acuto si dissonna per lo spirito visivo che ricorre allo splendor che va di gonna in gonna, e lo svegliato ciò che vede abborre, si nescia e la subita vigilia, finché la stimativa non soccorre. Così degli occhi miei ogni quisquilia fugò Beatrice col raggio di suoi, che rifuggea da più di mille miglia. Onde mei che dinanzi vidi poi, e quasi stupefatto domandai d'un quarto lume ch'io vidi tra noi. E la mia donna, dentro da quei rai, vagheggia il suo fattor l'anima prima che la prima virtù creasse mai. Come la fronda che flette la cima nel transito del vento, e poi si leva per la propria virtù che la sublima, fec'io intanto in quant'ella diceva stupendo, e poi mi rifece sicuro un disio di parlar ond'io ardeva. E cominciai: o pomo che maturo solo prodotto fosti, o padre antico a cui ciascuna sposa e figlia e nuro divoto quanto posso a te supplico, perché mi parli. Tu vedi mia voglia, e per udirti tosto non la dico. Talvolta un animal coverto broglia, sì che l'affetto convien che si paia per lo seguir che face a lui la invoglia. E similmente l'anima primaia mi facea trasparer per la coverta quant'ella a compiacermi venia gaia. Indi spirò: sanz'essermi proferta da te la voglia tua discerno meglio che tu qualunque cosa t'è più certa, perché io la veggio nel verace speglio che fa di sé pareglio all'altre cose, e nulla face lui di sé pareglio. Tu vogli udir quant'è che Dio mi puose nell'eccelso giardino, ove costei a così lunga scala ti dispuose, e quando fu diletto agli occhi miei e alla propria cagion del gran disdegno e l'idioma usai e che fei. Or, figliuol mio, non il gustar del legno fu per sé la cagion di tanto esilio, ma solamente il trapassar del segno. Quindi onde mosse tua donna Virgilio 4302 volumi di sol desiderai questo concilio. E vidi lui tornare a tutti i lumi della sua strada 930 fiate, mentre ch'io in terra fumi. La lingua ch'io parlai fu tutta spenta innanzi che a l'ovra inconsumabile fosse la gente di Nembrot attenta, che nullo effetto mai razionabile per lo piacer uman che rinnovella seguendo il cielo sempre fu durabile. Opera natural e quom favella, ma così o così natura lascia poi fare a voi secondo che va bella. Pria ch'i scendessi all'infernale ambascia, i s'appellava in terra il sommo bene, onde vien la letizia che mi fascia. E el si chiamò poi, e ciò convene, che l'uso di mortali è come fronda il ramo che sen va e altra vene. Nel monte che si leva più da l'onda fu io con vita pura e disonesta, dalla primora a quella che seconda, come il sol muta quadra l'ora sesta. Fine del canto 26. Paradiso, canto 27. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, cominciò. Gloria! Tutto il paradiso, sì che m'inebriava il dolce canto. Ciò ch'io vedeva mi sembrava un riso dell'universo, perché mia ebbrezza entrava per l'udire e per lo viso. Oh gioia, oh ineffabile allegrezza, o vita integra d'amore e di pace, o sanza brama sicura ricchezza. Dinanzi agli occhi miei le quattro face stavano accese, e quella che pria venne incominciò a farsi più vivace, e tal ne la sembianza sua divenne qual diverrebbe Iove, s'elli e Marte fossero augelli e cambiassersi penne. La provvidenza che qui vi comparte vice e officio, nel beato coro silenzio posto avea da ogni parte. Quand'io udii, se io mi trascoloro, non ti maravigliar, che dicend'io vedrai trascolorar tutti costoro. Quelli ch'usurpa in terra il luogo mio, il luogo mio, il luogo mio che vaca nella presenza del figliuol di Dio, fatta del cimitero mio cloaca, del sangue e della puzza onde il perverso che cadde di quassù laggiù si placa. Di quel color che per lo sole avverso nube dipigne da sera e da mane, vid'io allora tutto il ciel cosperso. E come donna onesta che permane di sé sicura, e per l'altrui fallanza, pur ascoltando, timida si fane, così Beatrice trasmutò sembianza, e tale eclissi credo che in ciel fue, quanto patì la suprema possanza. poi procedetter le parole sue con voce tanto da se trasmutata che la sembianza non si mutò più. Non fu la sposa di Cristo allevata del sangue mio, di lin, di quel di Cleto, per essere ad acquisto d'oro usata, ma per acquisto d'esto viver lieto, e Sisto, e Pio, e Calisto, e Urbano, sparser lo sangue dopo molto fleto. Non fu nostra intenzion ch'a destra mano di nostri successor parte sedesse, parte dall'altra del popol cristiano, né che le chiavi che mi fuor concesse divenisser signaculo in vessillo che contra battezzati combattesse, né ch'io fossi figura di sigillo a privilegi venduti e mendaci, ond'io sovente arrosso e di spavillo. In vesta di pastor lupi rapaci si veggon di quassù per tutti i paschi. Oh, difesa di Dio, perché pur giaci? Del sangue nostro ca orsini e guaschi s'apparecchian di bere. Oh, buon principio, a che vil fine convien che tu caschi? Ma l'alta provvidenza, che con scipo difese a Roma la gloria del mondo, soccorra tosto, sì com'io concipio. E tu, figliuol, che per lo mortal pondo ancor giù tornerai, apri la bocca e non asconder quel che io non nascondo. Siccome di vapor gelati fiocca in giuso l'aere nostro, quando il corno della capra del ciel col sol si tocca, in su vid'io così l'eter adorno farsi affioccar di vapori triunfanti che fatto avien con noi quivi soggiorno. Lo viso mio seguiva i suoi sembianti, e seguì finché in mezzo per lo molto li tolse il trapassar del più avanti. Onde la donna che mi vide assolto dell'attendere in su mi disse: adima il viso e guarda come tu sei volto. Da l'ora ch'io avea guardato prima, ivi dimosso me per tutto l'arco che fa dal mezzo al fine il primo clima, sì ch'io vedea di là d'Agate il varco folle di Ulisse e di qua presso il lito nel qual si fece Europa dolce carco. E più mi fora discoverto il sito di questa aiuola, ma il sol procedea sotto i miei piedi un segno e più partito. La mente innamorata, che donnea con la mia donna sempre, di ridurre ad essa gli occhi più che mai ardea, e se natura o arte fe pasture da pigliar occhi per aver la mente in carne umana, o nelle sue pitture, tutte adunate, parrebber niente ver lo piacer divin che mi rifulse quando mi volsi al suo viso ridente. E la virtù che lo sguardo m'indulse, del bel nido di Leda mi divelse e nel ciel velocissimo m'impulse. Le parti sue vivissime ed eccelse si uniforme son, chi non so dire qual Beatrice per loco mi scelse. Ma ella che vedea il mio disire incominciò ridendo tanto lieta che Dio parea nel suo volto gioire. La natura del mondo che quieta il mezzo e tutto l'altro intorno muove, quinci comincia come da sua meta. E questo cielo non ha altro dove che la mente divina, in che s'accende l'amor che il volge e la virtù che i piove. Luce e amor d'un cerchio lui comprende, siccome questo di altri, e quel precinto colui che il cinge solamente intende. Non è suo moto per altro distinto, ma gli altri son mensurati da questo, siccome 10 da mezzo e da quinto. E come il tempo tegna in cotal testo le sue radici e negli altri le fronde, omai a te può esser manifesto. Cupidigia, che i mortali affonde sì sotto te, che nessuno ha podere di trarre gli occhi fuor delle tue onde. Ben fiorisce negli uomini il volere, ma la pioggia continua converte in pozzacchioni le sosine vere. Fede e innocenza son reperte solo nei parvoletti. Poi ciascuna pria fugge che le guance sian coperte. Tale balbuziendo ancor digiuna, che poi divora con la lingua sciolta qualunque cibo per qualunque luna, e tal balbuziendo ama e ascolta la madre sua, che con loquela intera disia poi di vederla sepolta. Così si fa la pelle bianca nera nel primo aspetto della bella figlia, di quel ch'apporta mane e lascia sera. Tu perché non ti facci maraviglia, pensa che in terra non è chi governi, onde si svia l'umana famiglia. Ma prima che gennaio tutto si sverni, per la centesma che laggiù negletta reggeran sì questi cerchi superni, che la fortuna che tanto s'aspetta le poppe volgerà uson le prore, sì che la classe correrà diretta e vero frutto verrà dopo il fiore. Fine del canto 27.